sé. Punto primo, faccio uno spino. Inizia bene la giornata, tipo una chiavata al mattino. Punto secondo, sei più stronzo di un secondino. Se conto più di un secondo, non ti reggo come Rino. Punto terzo, t'avverto, non sono più un ragazzino. Non scherzo, non il più esperto, ma nemmeno un burattino. Punto quattro, provo sconcerto, do di matto se tradisci un fratello Caino. Punto quinto, meglio fermarsi alla bomba. Ti bruci un quinto, spendi un quinto rispetto alla bonza. Punto sesto, la mia voce rimbomba. Non pippo, non cado in basso limbo e vi saluto con la tromba. Punto sette, si riflette, io rifletto nel letto. Rap un concetto diretto per chi non lo trasmette. Mi rivolgo a certi rapper. Punto otto, lo ammetto, veloci, fuori tempo netto e vi sentite Vettel. Sono punti di vista, ognuno di noi c'è i suoi, io ne ho una lunga lista, concetti diversi dai tuoi, esprimo e rima il mio parere, volere e potere, quindi tentare di più, progetti in cantiere, farmi sentire mica vedere. Quello lo vuoi tu, Punto 9, buone nuove, sogno di andare altrove. Sogno 24 ore, solo sesso, mare e sole. Punto 10, arrivo dove, solo la mia forza vuole. Uso rime come pistole, i proiettili di parole. Punto 11, non siete gli unici stupidi che si sentono giudici. Cazzo giudichi. Punto 12, fra, non è credibilità. Non hai ancora i peli pubici. Nel 13 credici, non è scappatoia. Se tu reciti i meriti, soltanto una troia. Nel 14 va in paranoia. Ti fermano e parli con i bastardi, spiro scialoia. 15, quindi a chi devi credere? Amici mitici per Brindisi che si fotterebbero la tua Venere. 16, derata a me, lo devo ammettere. Sei l'opposto di uno specchio, parli senza riflettere. Sono punti di vista, ognuno di noi c'è i suoi, io ne ho una lunga lista, concetti diversi dai tuoi, esprimo e rima il mio parere, volere e potere, quindi tentare di più, progetti in cantiere, farmi sentire mica vedere, quello lo vuoi tu,